fatta. Le indagini dei carabinieri oggi si scoprono nel processo sono piene di omissioni, mancano i verbali di perquisizione che i carabinieri avrebbero fatto all'interno della Saman. Ci sono testimoni che parlano di questa cassetta che Rostagno teneva sul tavolo, c'è questa incertezza se fosse una cassetta audio o una cassetta video. Ad avere visto questa cassetta sulla scrivania di Mauro Rostagno è Gianni Di Malta, all'epoca cameraman di RTC. Proprio la sera dell'omicidio lui doveva restituire una videocassetta ad un'altra TV Telesud. Mi ricordo che la stessa sera Mauro mi disse: fammi questo favore, puoi portare questa videocassetta a Caterina Marcega a Telesud che mi era prestata tempo fa. Vado per prendere questa videocassetta che era sulla sua scrivania. Lui mi ferma e dice: no, non è quella, aspetta, e prendo un'altra cassetta. Nel frattempo io prendo quella videocassetta e mi accorgo che c'era scritto personale o non toccare Mauro, e quindi la ripongo nuovamente sulla sua scrivania, esattamente vicino alla foto della figlia Maddalena. Purtroppo, ormai col senno di poi, non so cosa ci potesse essere all'interno di quella videocassetta. Negli ultimi mesi Mauro Rostagno appariva turbato, registrava le telefonate e usava una sua telecamera. Gli ultimi 2-3 mesi era un po' cambiato, perché si vedeva che c'erano delle cose che lo turbavano, tant'è che ha chiesto allora ed ottenuto un registratorino perché doveva registrare tutte le telefonate che arrivavano a lui. Ci aveva detto che ultimamente riceveva delle telefonate di minacce. Sempre nell'ultimo periodo lui ha voluto una telecamerina Handycam che si è fatta comprare dall'editore. L'omicidio di Rostagno è stato deliberato in seno a Cosa Nostra, che ha voluto zittire una voce scomoda, dice Francesco Delbene, sostituto procuratore di Palermo, pubblica accusa al processo per l'omicidio del giornalista. Sicuramente, ed è questa l'impostazione accusatoria del pubblico ministero, l'attività di informazione giornalistica che Mauro Rostagno quotidianamente faceva tramite l'emittente RTC era un'attività di denuncia assolutamente eccezionale, anomala per il 1988, indicare quali erano le famiglie mafiose, i capi in quel momento riconosciuti, è emerso anche in dibattimento il business dei rifiuti, gli intrecci tra mafia e politica, intrecci tra mafia, politica e massoneria, la corruzione nella pubblica amministrazione, tutta questa è un'attività che Mauro Rostagno con grande impegno civile e con grande coraggio ha perseverato dalla televisione RTC. Poi in realtà sono emersi anche altri interessi connessi alla sua attività giornalistica, è emersa la circostanza di questo traffico di armi con paesi dell'Africa, è emersa anche e probabilmente la tesi meno evidente, l'interesse all'interno della comunità che Mauro Rostagno non venisse a conoscenza delle irregolarità amministrative nella gestione di Saman, che poi hanno portato alla condanna sia di Cardella che della signora Ruberi. L'esecuzione è stata demandata alla mafia. Noi siamo come pubblici ministeri convinti che sia così, l'esecuzione è stata demandata a Cosa Nostra. Le modalità attraverso le quali è avvenuto il delitto di stampo tipicamente mafioso, cioè colpi di arma da fuoco con fucile calibro 12, Mauro Rostagno che dopo essere stato attinto dai primi colpi viene sparato alla testa, quindi a mo' di colpo di grazia, l'autovettura utilizzata dai killer immediatamente dopo bruciata, sono proprio e soprattutto un'auto che era stata rubata a Palermo poco tempo prima, e sono tutte modalità similari ad altri delitti di mafia. In più le perizie balistiche hanno dimostrato come il fucile che è stato utilizzato per sparare a Mauro Rostagno presenta delle caratteristiche similari a quello utilizzato in altri delitti di mafia. Quanto l'omicidio Rostagno racconta della storia del nostro paese? Molto, moltissimo, proprio perché siamo dinanzi a questo intreccio perverso di mafia, politica, affari, massoneria, servizi segreti, che è un po' la storia del nostro paese. Le connivenze, i silenzi, la mafia di ieri e di oggi. Vedi, dice Rostagno a Claudio Fava 2 mesi prima di essere ammazzato, agli uomini capita di mettere radici e poi il tronco, i rami, le foglie. Quando tira il vento, i rami si possono spaccare, le foglie vengono strappate via. Allora decidi di non rischiare, di non sfidare il vento, oppure cresci e ti allarghi. Vivi, sfidi la mafia, che è una forma di contenimento, di mortificazione. La mafia ti umilia, la mafia è la negazione della dignità dell'uomo. E questo era l'approfondimento di Sabrina Pisu sull'omicidio di Mauro Rostagno. Italia in Controluce torna domani mattina alle 6:30.